Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro, e a guidare la radro sai che ci mettiamo? Ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a nove code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori di Radio 24. E stamattina i miei bracci di Alessandro, ma Alessandro Milan non c'è, quindi vi tocca solo Oscar Giannino. Mi dispiace innanzitutto perché volevo sentire il suo commento all'ennesimo cambio di allenatore dell'Inter, ma invece è andato bene a Meazza. Prima c'era l'ottimo Giulia Crivelli, è andato bene a Meazza che si è risparmiato i siluri al confronti della società per cui tifa. Comunque insomma, tre allenatori, il triplete, anche l'Inter ha fatto il suo triplete dal suo punto di vista, mentre gli juventini festeggiano. Ma andiamo al santo del giorno. Il santo del giorno è, insomma, diciamo che c'è un santo di riferimento che soprattutto per i tarantini è San Cataldo, perché è il patrono della città, e non c'entra con Taranto, perché in realtà era un monaco, poi vescovo irlandese del VII secolo, però doveva andare in pellegrinaggio verso la Terra Santa, se non che a Taranto poi si ammalò, morì e lì fu sepolto, dimenticato peraltro, se non che quando nel 1094, per restaurare la cattedrale, dopo che i saraceni, che spesso facevano delle puntate in cui tagliavano un po' di teste, facevano un po' di schiavi in Puglia, ricordate i martiri di Otranto, no? Non so se li conoscete, ma ricostruendo nel 1094 la cattedrale di Taranto, saltarono fuori i resti di Cataldo, e quindi Cataldo da allora è il grande patrono della città. Auguri anche a chi si chiama Alfio, Quarto, Quinto, oggi è San Quarto e San Quinto, Solange, Miro, Filadelfo e Cirino. E oggi è una giornata di avvenimenti politici, perché nel 1994, oggi Berlusconi, che aveva vinto le elezioni scombinando tutte le attese, formava il suo primo governo. Nel 2006 Napolitano, accidenti, qui dire napolitano e napoletano non è proprio la stessa cosa dai microfoni di Radio 24, comunque Giorgio Napolitano nel 2006 diventava Presidente della Repubblica, e nel 2007, sono 10 anni fa, Blair, che era il suo terzo mandato di premier britannico consecutivo, si dimetteva. Auguri oggi, e tra i tanti che festeggiano il compleanno, a Maurizio Belpietro, auguri Maurizio, e auguri ad Andrea Romano. Andrea Romano, che in realtà è di professione è uno storico, perché lui è professore associato di storia contemporanea all'università, mi pare, non mi ricordo se è Tor Vergata o La Sapienza a Roma, scusami Andrea, ma è poi prestato alla milizia civile, perché è stato eletto in questa legislatura con Scelta Civica, adesso poi nel PD, è passato nel PD ed è un renziano d'acciaio. A questo proposito vi dico subito, cari ascoltatori, telefonate se volete, ci fate un grande favore per darci la vostra opinione all'800 24 00 24. Diciamo che gli argomenti sono due oggi. Il nostro ospite che avremo tra pochissimo mi induce a chiedervi come la pensate su questo. Il nostro ospite sarà Matteo Salvini, perché uno dei punti di riflessione più acceso nel post elezioni, post vittoria di Macron, adesso dirò due parole sugli sviluppi che sono in corso in Francia, riguarda appunto la scelta che deve fare la destra italiana. Quindi domanda per voi ascoltatori, come chiederemo a lui anche: cosa deve fare Salvini dopo la sconfitta della Le Pen? Deve scendere un po' più miti consigli rispetto ad alcuni temi, soprattutto l'Europa e l'euro, della sua impostazione, come Berlusconi gli manda a dire, oppure no, separati, mandare separati le elezioni, poi magari vedere se riunirsi, ma si prendono più voti con il proporzionale se resta questa la legge elettorale. Insomma, volete una destra unita e più moderata o separata, ciascuno per la sua strada, uno con la Merkel, perché Forza Italia sta nel gruppo popolare europeo, è uno durissimamente anti-Merkel, anti-Europa, anti-Euro, come Salvini. Però vi chiedo anche di darci qualche opinione, se ve ne siete fatta una, su il tema politico del giorno. Esploso ieri, io vi avevo avvisato in apertura della trasmissione che l'uscita del libro di Ferruccio De Bortoli, Poteri quasi forti, Nave di Teseo Editore, si preannunciava come una bomba politica, perché nelle anticipazioni dei primi capitoli faceva una ricostruzione delle vicende del potere renziano, del circolo di potere renziano, dell'impostazione del potere renziano, che inevitabilmente avrebbe suscitato critiche, e in particolare si ricostruiva le vicende delle banche Etruria dicendo in maniera aperta che, malgrado le dichiarate distanze del ministro Maria Elena Boschi rispetto agli affari della banca di cui è amministratore il padre, in realtà non si era affatto ritratta dal chiedere all'allora amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni di rilevare la banca. Questa cosa è ieri puntualmente esplosa, è esplosa con Maria Elena Boschi che ha detto puro fango. Io parlo regolarmente con esponenti anche dell'economia, ma non ho minimamente chiesto a nessuno la cosa di cui scrive De Bortoli. Unicredit ha emanato una nota in cui dice: no, noi non abbiamo ricevuto pressioni politiche, però Unicredit Ghizzoni ha taciuto. Ghizzoni non è più l'amministratore delegato. La vicenda è esplosa in politica, sono state richieste di nuovo la sfiducia al ministro da parte dei 5 Stelle. Nel merito io dico solo questo: io da decenni ho solo imparato da Ferruccio De Bortoli, solo ho imparato stile e correttezza, è come si fa questo mestiere. E non ho dubbi, non posso avere dubbi sul fatto che se scrive una cosa simile Alessio Fonti ed è così, accusarlo di essere un propalatore di fango significa non conoscere Ferruccio De Bortoli. Lo dico, questa è proprio una cosa che dico non dal cuore, ma perché sono certo di quello che dico. Mi si potrebbe dire: il giornalista deve essere certo con le fonti alla mano, però mi dispiace, Ferruccio De Bortoli è un maestro di come si fa il proprio mestiere. E chi se lo dimentica e lo accusa di essere lui uno che sparge fango nella vita pubblica del paese non sa letteralmente chi sia, cioè siccome ignora chi è, allora è un ignorante, ho twittato ieri. Comunque vedremo gli sviluppi di questa vicenda, voi diteci che impressione vi siete fatto, se pensate che sia fango o se invece c'è una enorme non detto su questa vicenda di Banca Etruria, di che cosa significa per il cotè di potere renziano. E ora direi che possiamo immediatamente andare al nostro ospite. Ricordatevi che gli sviluppi in Francia sono esplosivi. Ieri è esplosa sia la crisi ancora più aperta del Partito Socialista francese, perché l'ex premier Manuel Valls ha detto: vado con Macron, il Partito Socialista, i partiti sono morti. Dall'altra parte è esplosa ancora prima di quanto si immaginasse la crisi anche al fronte nazionale, perché la terza Le Pen, Marion Marshall Le Pen, ha detto: chiudo con la politica, adducendo motivi personali, ma insomma tutti sanno che non ha mai gradito la linea di Marine, che non ha mai gradito il suo consigliere politico Philippot, tantomeno ha gradito l'annuncio di un cambio di nome del partito senza congresso, e quindi si tiene le mani libere per il futuro, ma contemporaneamente non vuole partecipare alla conta degli eletti del Front Nazionale, che secondo la base un po' nostalgica del fronte saranno molti meno di quanto si immagini. Quindi le due crisi e l'interrogativo su cosa farà Macron a questo punto sono un pezzo di tutti i giornali di oggi del mondo. Ma andiamo immediatamente col nostro ospite a capire che sviluppi e conseguenze questa vicenda ha all'interno del centrodestra italiano. Grazie di essere con noi a Matteo Salvini, parlamentare europeo, segretario della Lega Nord. Grazie. Grazie a te Oscar e grazie a chi ci ascolta. Allora, comincio subito da quello che è avvenuto ieri. Tu credi ai motivi personali della giovane Le Pen, oppure c'è un problema vero dopo il risultato del secondo turno e in vista delle legislative per il fronte? No, ho mandato un messaggio sia a Marine che a Marion stamattina, e vediamo se quale risposta arriverà. Ma di solito si contesta chi dice: lascio la politica perché non lo fa mai. Se Marion facesse così per dedicarsi alla bimba di 3 anni, giù il cappello. È chiaro che il Front Nazionale ha fatto il suo massimo storico, ha preso 11 milioni di voti, rappresenta un terzo dei francesi, però non basta per vincere, quindi avranno il loro dibattito interno. È chiaro che la Francia è la Francia, l'Italia è l'Italia. la Francia ha avuto l'impero, le colonie, è centralista, statalista, i dipartimenti, Napoleone, l'Italia ha 8.000 campanili belli e diversi, Pisa non è Livorno, Brescia non è Bergamo e Palermo non è Catania, quindi sono due storie diverse. Io continuo a ringraziare Marine Le Pen per la sferzata di energia e le proposte di cambiamento che ha portato. Trasporla in Italia, tout court, nel bene e nel male è impossibile. Prendo atto e ricordo a chi ci ascolta che uno dei 144 punti del programma di Marine Presidente riguarda ad esempio la nostra legge Fornero ed è esattamente la proposta della Lega, la cosiddetta quota 100, 60 anni di età e 40 anni di contributi per riaprire il mondo del lavoro. Detto questo, la Francia è la Francia, l'Italia è l'Italia, sono orgoglioso di quello che ha fatto Marine. Noi vedremo con la stessa coerenza di provare ad arrivare a vincere invece. Ma facci capire, quando dici la Francia, Italia, l'Italia, che ovviamente è così, vuoi dire anche che chi ti invita, ti ha invitato a una riflessione, cioè Silvio Berlusconi, che prima del voto aveva detto che l'accordo con te e con Giorgia Meloni era già praticamente raggiunto per il 96%, aveva detto, usato un numero... Che, uno dice... che aveva già distribuito i ministri, no, appunto, che il leader non era, che il leader non era un problema, però eravate d'accordo al 96%, no, dicevo, 96%. Poi dopodiché ha detto anche con un tono rispettoso, però dopo il risultato Macron dice no, non credo che sia un monito per Salvini, però certo deve riflettere perché le posizioni estremiste non sono quelle con cui si vince. Guarda, io rinnego l'estremismo e rivendico posizioni di buon senso. Che vuol dire rinneghi l'estremismo? Ma che, perché sono estremista? Non ho ancora, nessuno mi ha ancora spiegato perché. Quando lo chiederei a Berlusconi come a Renzi. Se capisco un bene. Il controllo dell'immigrazione. No, aspetta. No, non credo che sia questo il problema, perché chiedere una ridiscussione dei trattati europei tornando a un concetto di comunità economica. Il rilievo quando diceva il 96%, perché poi ha fatto l'elenco dei temi su cui eravate d'accordo, ce n'era uno chiaramente che era diverso. Perché lui, cioè Berlusconi, traffica con questa idea di che spaccia come un'idea che può funzionare la doppia moneta. Aspetta un secondo. Però la differenza è quella, cioè ti dice l'uscita dall'euro è vista dagli elettorati come un salto nel buio. Vedi, in Francia Le Pen non ha portato bene, ha dovuto frenare pochi giorni prima, ma insomma non gli ha portato bene. A me pare che la cosa di Berlusconi in realtà si riduce a questa, cioè se Salvini tira un po' il freno. Ma innanzitutto oggi è mercoledì e per me oggi è mercoledì. Se Berlusconi e Oscar Giannino mi dicessero però Matteo frena, sii più prudente perché a qualcuno non piace il mercoledì, quindi quando vai su Radio 24 di che forse è quasi giovedì o è appena passato il martedì, per carità di Dio, ma posso dire che ieri era martedì, però oggi è mercoledì. Un paese che non controlla la sua moneta non è un paese libero, e un paese che non controlla i suoi confini non è un paese libero. C'è qualcosa di facile? No. Il meglio sarebbe, e questo, per questo stiamo lavorando, una ridiscussione ordinata e coordinata tra i 28 paesi dell'Unione Europea, trattato per trattato, moneta compresa. E da adulti si fa così, non si bisticcia andando via col pallone. Però io nel nome della verità non sacrifico la mia idea per due voti in più o in meno. Ma il problema non è solo questo, perché Berlusconi, tu parlavi di banche, ha votato con Renzi a pacchetto chiuso il salvabanche e in Europa hanno votato la direttiva bail-in sulle banche, contro cui la Lega ha votato. Ma Forza Italia sta nel Partito Popolare, insomma il gruppo che è il Partito Popolare sta con la Merkel. Ma sull'immigrazione a Bruxelles Forza Italia vota col PD e con i 5 Stelle, aggiungo, perché 15 giorni fa Frontex, l'operazione di scafismo di Stato, è stata rifinanziata col voto del PD, di Forza Italia e dei 5 Stelle. Non puoi fare una cosa a Roma e a Milano e una cosa a Bruxelles, anche perché i tre quarti delle leggi che poi vanno sui capi dei cittadini che ci stanno ascoltando partono da Bruxelles, tutte, dal patto di stabilità alla legge Fornero, alla direttiva Bolkestein, agli studi di settore. Io ho visto che sono emersi i dati del 2015 relativo a 3,5 milioni di italiani sottoposti a quella che è una ghigliottina, secondo me senza senso e fuori dal mondo, come lo studio di settore, e qualcuno si lamenta perché forse l'evasione è lì. Ragazzi, ma se lo Stato italiano chiede a chi produce, a chi lavora del suo, il 65%, per perché l'Europa ci impedisce di abbassare il prelievo fiscale. Posso ridiscutere queste pretese europee o sono un estremista? No, ma il problema, la differenza è, perché io colgo una sfumatura in quello che ti stai dicendo, perché dici no, discutere senza scappare con il pallone, tutti i trattati europei, compreso la moneta. Dire, o mi danno ragione o no, no, vabbè. Tutti a quel paese. No, perché... Io propongo la flat tax, la tassa unica al 15%, mi davano del matto fino a 15 giorni fa. Adesso la propone Trump per chi fa impresa negli Stati Uniti, quindi sono un po' meno matto. Funziona in 40 paesi al mondo, a me interessa il principio. Okay. Se poi mi dimostrano che sta in piedi anche al 18%, non è che io mi impicchi ai miei numeretti o a ragione Salvini o niente. No, però il ragionamento sottinteso Berlusconi è... Nei grandi paesi europei questa roba dell'uscita dall'euro, mentre mesi fa, a dire la verità... La grande paura degli establishment era che potesse funzionare, perché bastava vedere i giornali tutti i giorni, bastava vedere il report delle banche, bastava vedere i movimenti sui rischi sovrani che riprendevano sulle monete. A oggi, insomma, gli elettorati dicono: beh, insomma. Okay. Questo è qua. Allora dice delle... Berlusconi, capisco se Salvini vuole il 13-14% da solo, non per governare, ma se io voglio governare devo tenerne conto. Allora, fatto salvo che io voglio governare perché le cose in Italia le cambi se governi, non se urli alla finestra o su Radio 24 o su Facebook. Il mio obiettivo non è eleggere tanti parlamentari che fanno l'opposizione, il mio obiettivo è eleggere i parlamentari che mi permettano di andare a governare, perché io la legge sulla buona scuola non la cambio se non vado a governare. Io i pieni poteri ai sindaci non li do. Qualunque cosa non la cambi, se fai il pienone e il leader del tuo partito, ma non per governare. Eroe del primo partito dell'opposizione. Non mi interessa. Non mi interessa. Sono felice di aver portato la Lega dal 3 al 13%. Ma il mio obiettivo è provare ad andare a governare come stiamo facendo in Veneto e in Lombardia da 20 anni, chiedere a cittadini veneti e lombardi se il livello della sanità in Veneto e Lombardia è migliorato, è accettabile oppure no. Detto questo, non sono disposto a tutto, a svendermi, quindi l'ho detto a Berlusconi, Alfano, Fini, Verdini, Fini, no, neanche dipinti sul muro, perché poi qualcuno mi dice, però per governare devi ritirare dentro tutti, no, l'armata Brancaleone, l'arca di Noè che poi riprende a litigare, appena abbiamo vinto io non la voglio vedere. Va bene, però. Due, su alcuni principi non si negozia, anche perché io ricordo a me, a te, a chi ci ascolta, che il primo turno delle elezioni francesi, coloro che hanno preso i voti dei francesi su una piattaforma che prevede un'altra Europa sono stati il 49%. No, ma infatti ripeto, non è proprio che poi al secondo che turno, si rivela tutti contro uno, del tutto inesistente il tema, non mi pare. Tutti contro uno. Ragazzi, di là c'erano, sono stati geniali, abili, hanno fatto un esperimento di ingegneria sociale incredibile. Mettendo la giacchina nuova a Macron che ha fatto il ministro socialista per 2 anni, no, no, non sottovalutare neanche tu che costruire una maggioranza con pezzi in cui ci sono sia le vittime della crisi economica sia le elite integrate, beh, è una delle cose più difficili, ma può funzionare, cioè non è una cosa. Hanno messo insieme i banchieri, i finanzieri, sai, disoccupati, gli immigrati clandestini. Ti faccio un esempio che a me non piace, ma storicamente ha funzionato. La DC stupì tutti nel 46-48 perché fu capace di fare una cosa simile. Detto tutto questo, meglio il proporzionale del piffero per tenervi le mani libere a voi, signori segretari dei partiti, o una roba per governare che scelgono gli italiani? Io il 4 dicembre sera, all'indomani del referendum, che fortunatamente è andato così, e adesso pensate solo alla legge sulla legittima difesa che hanno cambiato maldestramente alla Camera, Renzi ha detto la cambieremo al Senato, pensate se non ci fosse il Senato, avevamo la legge che prevede la legittima difesa di notte ma non di giorno. Io voglio un sistema elettorale dove la sera delle elezioni si sa chi governa. Io personalmente ho sempre preferito il maggioritario coi collegi, in modo tale che nel quartiere di Baggio, nel mio quartiere a Milano, io sapessi chi votavo e se lavorava bene sapevo dove andare a fargli i complimenti, se lavorava male sapevo dove andare a tirargli le orecchie, e questo vale per Bologna, per Brescia, per Roma. Quindi un maggioritario con i collegi, rapporto diretto, eletto, elettore. Ma secondo te perché l'impressione forte, anzi Berlusconi esplicitamente dice, no aspetta, Berlusconi esplicitamente dice io preferisco il proporzionale con un premio di coalizione. Renzi mi pare che in realtà dica io preferisco un proporzionale ma con il premio di lista. Perché preferisco il proporzionale loro? Perché vogliono tenere il piede in tre scarpe. Prendere il voto, poi decidere se portare questo voto a destra, a sinistra, sopra, sotto. Io sento odore di grande inciuccio e di grande minestrone. perché quando tutti dicono viva Macron, vabbè che gli italiani fanno in fretta a salire sul carro del vincitore, io non cambio idea in base a chi vince. Però Renzi ha detto viva Macron, la Boldrini ha detto viva Macron, Berlusconi ha detto viva Macron, il grillino Maglio di Stefano ha detto viva Macron. Ma io fossi negli ascoltatori chiederei chiarezza. Vorrei sapere chi mi governa il giorno prima del mio voto, non il giorno dopo. Va bene, l'ultima riflessione che però faccio è questa: i presidenti del Nord, sono della Lega, ci sono con una coalizione, certo. Coalizione con Berlusconi. Il dato di fatto è questo. Oggi ho colto qualche punto in cui di disponibilità e anche una riflessione, anche se non lo vuoi ammettere, da parte tua nel post Francia, cioè discutiamo dei trattati, discutiamone, non si scappa via. Lo chiedo da 3 anni. Ok, no, ma è solo per dire. Torniamo a un concetto no fughe di in avanti. Comunità europea. No, poche cose comunità è fatte bene. Va bene. Detto questo, in Lombardia e Veneto. La Boschi deve restare o che cosa deve fare? No, la Boschi si sarebbe già dovuta dimettere da mesi. Ci credi a De Bortoli, quindi credi a De Bortoli. Ma al di là delle ultime ipotesi che sarebbero gravissime, il fatto che non c'è ancora una commissione d'inchiesta per trovare i colpevoli del disastro bancario, il fatto che ci siano 300.000 risparmiatori veneti e toscani a rischio, il fatto che non sia ancora stato risarcito nessuno, il fatto che non ci sia ancora in galera nessuno, il fatto che la direttiva europea che ci sta massacrando non sia ancora stata impugnata da nessuno. Vabbè, questo sono le collusioni della politica con le banche. Però la Boschi, credi alla sua estraneità o no? Io penso che la Boschi si sarebbe già dovuta dimettere. Ecco. Che un governo con la Boschi al suo interno gridi vendetta. Va bene, buona giornata e grazie a Matteo Salvini. Buon lavoro. E sentiamo poi un po' come la pensate voi anche su questo tema. E naturalmente prima la pubblicità, poi ci abbiamo un bel po' di telefonate da parte vostra. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Mattino. Ed eccoci qua, tornati in diretta alle 8.45 e 52 secondi di questo 10 maggio. Nel frattempo, nel cuore della notte, è esploso un altro guaio istituzionale per Trump negli Stati Uniti, perché con un solo precedente nella storia ha defenestrato il direttore dell'FBI, l'accusa avanzata anche dal Dipartimento della Giustizia, le cui accuse a Comey, al direttore della FBI, il presidente americano condivide, è quella di aver mentito al Congresso sul caso Hillary. E Hillary ha sempre detto che ha perso le elezioni per via delle dichiarazioni del direttore dell'FBI che disse di aver riaperto l'indagine e la possibilità di incriminarla, quindi per le sue mail private sottratte al server del Dipartimento di Stato sul delicato caso della Libia. Ma in realtà il casino che è scoperto subito al Congresso americano, delicato per Trump, e che immediatamente i democratici hanno chiesto a questo punto al defenestrato Comey di rendere testimonianza pubblica al Congresso per via dell'indagine che l'FBI stava conducendo questa volta sui rapporti tra Putin e la Russia e il circolo dei più diretti collaboratori del neopresidente americano. Quindi altra bella vicenda, insomma non ci si annoia sulla scena internazionale in questo 2017. Ma io vorrei richiamare la vostra attenzione anche su una cosa che sui giornaloni non c'è, ma ci apre il Mattino ed è anche riportata dal Messaggero, perché c'è il report del servizio di intelligence dell'Austria relativo, torniamo al tema dei profughi della Libia, e sono indicati con precisione i nomi dei 3 capi di cosche di trafficanti di carne umana che fanno accordi con la guardia costiera libica di al-Sarraj, esattamente quello che l'Italia copre di soldi come proprio candidato alla guida del governo di conciliazione libico. Ecco, questo materiale spero che gli altri giornali lo approfondiscano oggi su Domani e che siate in grado di valutarlo. Lo dico perché le accuse che ci sono state sollevate nei confronti di chi, giornalisti, tenta di approfondire questa pista dicendo volete semplicemente buttare fango sulle ONG sono false. Come vedete c'è materiale vero per interrogarsi su quali sono i nessi impropri tra i commercianti di carne umana e esplicitazioni, l'apparato di potere di al-Sarraj che sono del tutto permeati da questo. Questo sta dietro un pezzo fondamentale del fenomeno dei profughi raccolti subito fuori le acque libiche. E approfondire questa cosa e porsi il problema di quali sono le responsabilità, le ipocrisie e le opacità italiane non significa mancare di rispetto alle ONG, non in generale, soprattutto a quelle più trasparenti di loro, su altre magari meglio anche interrogarsi un secondo. Ma andiamo invece alle domande che avevamo posto, quello sul caso Boschi e che cosa volete da Berlusconi e Salvini, preferite una destra separata unita. Cominciamo con qualche telefonata di ascoltatore sui caso De Bortoli, Boschi, Banca Etruria, Unicredit. Francesco da Roma, come la pensa Francesco? Buongiorno. Io, considerata la storia di Ferruccio De Bortoli, la serietà professionale e l'onestà intellettuale, a prescindere da, diciamo, da, a prescindere dalle prove, credo, non dico che gli credo per fede, ma quasi. Detto questo, vorrei ricordare una cosa: non sono soltanto le affermazioni di De Bortoli a, come dire, porre in evidenza l'opacità dei comportamenti della Boschi e del governo e di buona parte dei componenti del precedente governo Renzi, ma sono tutte, ma è la loro storia, cioè il modo di condurre le cose, il modo di comportarsi, l'essere rampanti, tra virgolette, che non le piace. Però qua siamo in presenza di un atto improprio, cioè di una banca in decozione con un amministratore padre, eccetera. Su questo non c'è dubbio, per cui io ritengo sicuramente che De Bortoli, conoscendolo, leggo De Bortoli da svariati anni. E quindi lei, Francesco, ha un'opinione di questo tipo. Io aggiungo, il problema non è solo la fiducia personale, il problema è che io mi onoro anche di avere un rapporto personale, mi ha dato dei buoni consigli nella vita, se non li ho seguiti, infatti ho sbagliato, lo dico anche pubblicamente, e il punto è che io sono abituato a, per le molte conferme che ho avuto nella vita professionale, del fatto che se De Bortoli scrive una cosa non inventa. Ecco, io non è che dico gli chiedo sulla fiducia, per me parla la sua vita professionale. Io l'ho visto spesso omettere su cose delicate, cose di cui non era certo, perché diceva: il nostro mestiere non è agitare fumo inutile. Se una cosa invece è, ti risulta, allora c'è il dovere. Allora, io penso che, siccome tante volte ho toccato con mano che De Bortoli, come direttore e come giornalista, ha fatto così, anche questa volta ritengo che è pienamente consapevole com'è della delicatezza della cosa di cui scrive, la possa aver scritta solo perché dietro c'è questo atteggiamento. Ma per lui parla una vita intera professionale, una vita intera. Naturalmente immagino che a molti invece possa sembrare una specie di mulino a vento del fango. Tutta la sua vita dice il contrario, però io capisco chi ha dubbi. Vittorio da Milano, come la pensa Vittorio? Buongiorno Gianino. Buongiorno. Allora, io volevo fare una scommessa con lei, che lei si erge a paladino di De Bortoli. No, io non sono degno di essere paladino di De Bortoli. Sì. Però dico semplicemente che... Mi lasci dire. Allora, lei si erge a paladino di De Bortoli. Allora, facciamo una scommessa con lei. Ci giochiamo una cena con tutta la sua redazione. Se vuole andiamo da Giannino. Ma di che a tipo? Milano. Ma di che tipo? No, no, Giannino. No, non è allora, mio. Allora, perché quando questa cosa qui finirà in tribunale, il signor De Bortoli pagherà. Questa cosa qui perderà, perché sicuramente il signor De Bortoli, visto che vendendo il suo libro, che penso che abbia pensato anche lui di vendere qualche copia in più, quindi che lei dice questa cosa della Boschi, ha tirato fuori qualche cosa qui, perché no, il suo libro ma lei su che basi lei su che basi dice? Anch'io penso che finirà in tribunale, è inevitabile vista la delicatezza della cosa, in tribunale vedremo, sono d'accordo con lei, ma lei su che base è così certo? Lei pago io la cena, se ma la no, ma la scommessa non mi interessa. Quello che mi interessa capire, perché lei è così certo che la Boschi non ha fatto quelle telefonate qui con lui? Perché io ho un po' di anni più di lei. Anche lei, per esempio, se si ricorda, aveva fatto anche lei il suo errore per prendere qualche voto come in no? più, aveva raccontato anche lei una cosa che non era vera. Ma questo cosa c'entra con Banca Etruria e la Boschi? Come hai fatto con i grandi giornalisti, mi devi spiegare, perché un giornalista, quella volta che il signor De Bortoli, quella volta che aveva scritto quell'articolo dicendo che Berlusconi ascoltava un po' i suoi avvocati, un mese dopo non era più al Corriere della Sera, quindi si è messo la coda nel mezzo alle gambe e se n'è andata fuori dalle palle. Quindi non è il grande giornalista, non è il grande però lei stesso sta dicendo, io rispetto la sua opinione, non la condivido, cioè, però lei stesso sta dicendo che De Bortoli ha pagato, in termini di direzioni che gli sono saltate. Però non mi sorprende che ci sia che la pensa come lei. Penso che infatti vedremo un tribunale adesso della vicenda, i tempi saranno quelli del tribunale. Non mi stupisco, beh, tutte le opinioni sono legittime, cari ascoltatori, e figuriamoci se quella di Vittorio non lo è. Federico da Pordenone, Federico, mi pare che invece il tema tuo fosse Salvini, Berlusconi da destra. Sì, buongiorno, e sempre Giannino for President. Figuriamoci. Un saluto ai miei colleghi che mi ascoltano ormai. Va bene, niente, volevo solo dire che relativamente a cosa dovrebbe fare il centrodestra dopo Macron, che si spiega nella storia di quello che è successo in Italia con il Macron italiano, che era nel 2014 Renzi. Le false promesse e le false... Cioè tu dici Macron non regge, cioè Macron, il suo programma non si riuscirà ad attuare. No, non si riuscirà ad attuare semplicemente perché non dipende dalla Francia e da lui, ma dipende dal resto dell'UE. Quindi insomma, se capisco bene, secondo te ha più ragione Salvini a tenere i piedi duri piuttosto che Berlusconi che dice tieni i piedi un po' più molli? Sbaglio? Esatto, No, Salvini deve tenere i piedi duri, Berlusconi deve decidere se sta con Renzi o con un'impostazione alternativa. Vabbè, opinione chiara da Federico. Continuate sulla 24, ci sono oggi anche alle 4:30 e domani mattina alle 8:20 torna anche Alessandro Milan con Attenti a noi due. Chissà che non ci sia un quarto allenatore dell'Inter nel frattempo, ma comunque mai dire mai.